Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ecco, siamo arrivati anche noi. Buona giornata a voi. Sono le 11:12. Direi che è tempo di andare al nostro sommario con Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi è tornata in redazione. Capelli a prova d'estate. Anche il cervello si stanca. Aiutalo. Miglio e germe di grano, una coppia salutare. Come porti i capelli, bella bionda? Tu li Scusi, porti alla bella marinara. Guardi, di solito io i capelli me li fa. Dipende molto anche dal modo di. Comunque me li tiro tutti indietro. E voi come li portate i capelli e soprattutto come li trattate? Anche se l'estate è ancora un po' incerta, tra poco decollerà, ce lo auguriamo, e le nostre chiome acquisteranno riflessi dorati, saranno accarezzate e scompigliate dal vento, verranno bagnate dall'acqua di mare e con ogni probabilità anche da quella clorata delle piscine. Ma tutto questo sarà per loro una vacanza o uno stress? Allora, cari amici, per non rischiare di trovarci a settembre con capelli sfibrati, spenti, aridi, con un'irrefrenabile tentazione a svenire, a spiaggiarsi sui lavandini e cuscini, cerchiamo di giocare d'anticipo. Abbiamo due esperti pronti a darci tutte le indicazioni. In linea abbiamo il dottor Fabio Rinaldi. Buongiorno dottore, bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Dermatologo a Milano e presidente IHRS, che è una fondazione di ricerca internazionale sui capelli. Qua in studio con me, e non me lo lascio scappare, il professor Umberto Borellini. È venuto a trovarci di recente, si è trovato bene, è tornato. Ovvio. Cosmetologo e docente all'Università di Pavia e Roma Tor Vergata. 800-24-0024, 349-238-6666, questi sono i numeri per telefonarci o per scriverci. Dottor Rinaldi, inizio subito da lei perché ho bisogno di aiuto. Per la pelle si parla di fenotipo e di fototipo, invece per i capelli sembriamo un po' a corto di classificazioni. Dato che lei ci deve aiutare a capire di più dei nostri capelli oggi, di quale indicazione ha bisogno per darci il consiglio proprio su misura? Ad esempio, le interessa sapere se sono secchi, grassi o normali, oppure ricci, lisci, ondulati, biondi, castani, tinti, soprattutto se ci sono, dottor Rinaldi. Se non ci sono, abbiamo già fatto, siamo già a posto. Mettiamo il cappellino e via. No, in fondo è un risparmio, no? Perché certo. Però non sottovalutiamo, in effetti, piccola notizia, poi parliamo dei capelli, perché effettivamente se i capelli mancano, la pelle del cuoio capelluto è ancora più a rischio e quindi assolutamente è a rischio di danno del sole, quindi comunque va protetta bene anche se non ci sono. Ma diciamo che dobbiamo sapere un po'. Ma scusi, tutto. Intanto che lei l'ha introdotta, sì, così coinvolgo subito il professor Borellini. A parte il cappellino, ma si mettono le stesse creme che si mettono sulla faccia, sul cuoio capelluto? No, giustamente come dice il professor Rinaldi, in testa il sole batte proprio dritto, per cui si dice per esperienza personale. La radio ci salva da questo punto di vista. E anche il telefono. Esatto. Ciao, volevo salutarti. Ciao. Quindi direi che addirittura schermi, quindi sostanze protettive molto più dense, molto più protettive, proprio perché nella chierica. Beh, il sole si accanisce. Duro, sì. Allora, invece, dottor Rinaldi, occupiamoci dei nostri capelli. Che cosa dobbiamo sapere dei capelli dei nostri ascoltatori? Allora, dobbiamo sapere effettivamente un po' comunque com'è il fototipo, e quindi vuole dire che colore ha i capelli, hanno i capelli anche rispetto al colore della pelle e al colore degli occhi, perché comunque il aiuta. Fototipo si determina con tutte e tre queste cose, e quindi aiuta. E poi effettivamente dobbiamo sapere se la pelle del cuoio capelluto è grassa oppure no. I capelli non lo sono, ma è la pelle che lo determina. Se sono particolarmente fini oppure tendono a essere un po' sfibrati e quindi si rompono e si danneggiano più facilmente, se sono tinti oppure se sono naturali, quindi dobbiamo sapere un po' di anche se sono ricci o se sono lisci, perché anche qui cambia. Dopodiché stabiliamo come proteggerli in base a un po' di questi elementi, anche se poi in realtà il buon senso generale è comunque utilizzo qualcosa che li preserva e li protegge, insomma. Professor Borellini, credo che a lei possa essere utile sapere i prodotti che utilizziamo per le cure ordinarie, shampoo, balsamo, straordinari, lozioni e maschere, ma soprattutto i risultati che otteniamo rispetto a quelli che vorremmo ottenere. Quindi lei può già rispondere a Maria che ci scrive: d'estate mi lavo i capelli tutti i giorni con shampoo delicati e i miei capelli sembrano mosci, senza tenuta, perdono volume e tono. Ecco, qui il primo consiglio che potrei dare per chi va al mare, un consiglio che farà felice anche gli ecologisti: in spiaggia, per asportare i residui, si può benissimo fare una doccia senza alcun tipo di prodotto, perché chiaramente l'acqua di mare è idrosolubile, per cui una bella sciacquata di acqua dolce risolve già il problema. Chiaro, magari alla sera o d'estate chiaramente si tende, stando al mare, a lavarseli un po' meno, preferire delle formulazioni delicate. Dopo vedrò di dare qualche indicazione per decifrare le etichette. E un altro consiglio proprio molto, molto casalingo è quello di tagliare sempre la dose, ovvero diluire il prodotto, lo shampoo, sempre con una parte di acqua corrispondente al prodotto. Quindi metà e metà. Metà e metà, in modo da diluire comunque l'aggressività che queste sostanze detergenti, chiamati tensioattivi, comunque si sostanziano sul capello. Ecco, certo. Quindi sono sempre anche delicati, ma sono sempre detergenti. Di quali indicazioni però ha bisogno? Perché se noi utilizziamo i prodotti magari siamo soddisfatti, a volte invece non otteniamo l'effetto che vorremmo avere. Direi che le indicazioni date dal professor Rinaldi sono quelle che servono anche a me, diciamo, come aspetto più cosmetico, quindi più superficiale. Però appunto spenti o opachi, elettrizzati, ecco, a volte il capello elettrizzato significa che la sua guaina protettiva ha avuto dei problemi, degli stress, e quindi tende a essere meno condizionato. E se si sporcano, ecco, diciamo, queste cose qui. Quindi raccontateci i problemi che avete in testa, 824 0024. Dottor Rinaldi, il sole, le chioma le bacia tutte, belle e brutte, no? Per alcune sarà un toccasana, molti disturbi, penso alla forfora, si attenuano, spariscono temporaneamente perché poi ritornano, altri invece si riacutizzano. Allora, proviamo a fare una previsione: a chi gioverà il sole e chi invece deve fare particolarmente attenzione perché rischia? Beh, il sole gioverà chi ha i capelli molto grassi, cioè chi ha una ipersecrezione di sebo, perché comunque il sole diminuisce la secrezione del sebo, la pelle si regolarizza un po' e quindi, come diceva prima il professor Borellini, si lavano un po' meno perché serve anche meno. Sì. Sicuramente farà bene a chi soffre di malattie del cuoio capelluto o disturbi del cuoio capelluto come la psoriasi oppure come la dermatite seborroica. Sì. Normalmente in questo periodo, e poi si ripresenterà probabilmente, ma in questo periodo si sta bene. Sicuramente anche qui con attenzione, perché anche in queste condizioni, quando il sole fa bene, se il sole è in eccesso addirittura si rischia un effetto paradosso di peggioramento della situazione, quindi comunque l'attenzione va posta lo stesso. Credo che indubbiamente invece non ne favoriscano chi ha un cuoio capelluto normale e quindi comunque ha i danni tipici del sole, esattamente come fa male alla pelle, l'invecchiamento della pelle o problemi anche maggiori, o comunque che ha dei capelli magari un po' fini e un po' secchi, che diventeranno ancora più fini, ancora più fragili e che si spezzeranno di più, perché l'effetto negativo dell'acqua di mare, quindi del sale, di una soluzione che si chiama ipertonica, che chiama acqua fuori dal fusto, delle sostanze che ci sono nella piscina, per esempio il cloro o gli algicidi, che sono altrettanto pericolosi ma che ci devono essere, col sole possono nettamente peggiorare il fusto dei capelli. Ci scrive un ascoltatore: ho 51 anni, i miei capelli li chiamo per nome, visto quanti sono. Per me c'è speranza, ne parleremo nel corso della trasmissione. 824 0024, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E prima di parlare di cure ordinarie, straordinarie, da dedicare ai nostri capelli, facciamo una breve sosta per parlare di cervello. Anche lui ha i suoi gusti e le sue richieste. In linea con noi il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, grazie. Professore, questa è una stagione difficile, arriva il caldo, le forze sembrano mancare, ma gli impegni restano, direi si affollano, e noi dobbiamo essere pronti, svegli, vivaci, Però siamo così stanchi, perché Dormini si inizia a far fatica un po' ad addormentarsi, ci si risveglia. Prendersi qualche stacco sarebbe bello, però non ce la facciamo. Dovremmo curare più la dieta. Non sempre questo ci riesce. Allora io mi affiderei a lei, perché vogliamo capire come possiamo aiutare il nostro cervello a dare il meglio di sé. Soprattutto penso ai ragazzi che stanno preparandosi per gli esami e a tutti noi che abbiamo delle scadenze importanti. Le vacanze ci arriveranno, ma sembrano ancora molto lontane. Professore. Allora, dunque, sentivo parlare prima con molto interesse di acqua e di sale. Beh, il cervello ha molto bisogno di acqua e molto bisogno di sali, e vorrei improntare questa brevissima chiacchierata su alcuni aspetti prevalentemente alimentari che sono molto interessanti. Allora, periodo di maturità, i ragazzi si preparano per un esame, è anche periodo di mondiali, e c'è un parallelismo molto semplice. In primo luogo, la preparazione è una preparazione alimentare. Prediligere, scegliere in preferenza gli acidi grassi polinsaturi, pesce e olio. Questo fa da preparazione atletica, il cervello è un viscere grasso. Non solo, con un meccanismo molto complesso, ci può essere anche un incremento dell'attenzione, ma per la gara, quindi quando c'è una maggiore richiesta, in questo caso il giorno dell'esame, prediligere invece carboidrati a rapida utilizzazione. Magari non il riso e la pasta, non ce la faremo mai a mangiarlo la mattina, ma certamente il miele. Un ammonimento, attenzione con il caffè, non solo quello che prendiamo consapevolmente, lo dico ai ragazzi, ma nelle bevande ricche di caffeina, e ce n'è ormai in giro una marea senza fare nomi, sì, questi darebbero fastidio, certamente fastidio l'alcol. Cosa fare, come organizzare la giornata nel giorno che deve fare gli esami? Trovare uno spazio per lo sport, possibilmente, qua sembra provocatorio, uno sport competitivo, giocare a calcio, tennis, se è una ragazza che questi sport non fa, aerobica o spinning, dove ci sia carica agonistica ed entusiasmo. Da un lato è una maniera per scaricare, dall'altro è una maniera per entrare in clima agonistico, in clima competitivo. Terzo aspetto, il riposo. Lo studio matto e disperatissimo di Leopardi lo poteva fare lui, non lo possiamo fare noi. Durante il riposo, questo lo dico sempre, ma è una verità estremamente interessante, noi impacchettiamo i dati della memoria. Quindi è come se avessimo un cassetto con tante cose in disordine, e nel corso del sonno le pieghiamo e c'entrano più cose. Magnifico. Professore, quindi tutti questi consigli che lei ha dato specificatamente ai ragazzi valgono anche per gli adulti? O dobbiamo aggiungere qualche dettaglio o togliere adulti, qualcosa? Agli adulti darei qualche consiglio diverso. Distinguiamo la donna dall'uomo, magari la donna giovane. Allora, se la donna giovane è magari anche cefalalgica, spesso lo è, evitiamo alcuni rischi estivi, sono delle magari ragazze in ascolto, cioè l'estate che va davanti a caffè e ad after hours, non c'è abitudine più deleteria della stagione degli aperitivi, viene assorbito maggiormente l'alcol, questo crea ulteriori problemi. Ridurre il caffè, ridurre i dolcificanti contengono aspartame, se sei una donna predisposta a mal di testa lo peggiori. Privilegiare invece in ambito alimentare ciò che contiene la B2, il coenzima Q10 e il magnesio, e sono latte, uova, pesce, il pesce povero, il pesce grasso buono, acciughe, sardine, sgombro, esattamente, e poi gli ortaggi e i vegetali a foglia larga. Per gli sport di tipo aerobico, ma evidentemente meno stressante, camminare o nuotare. Per l'uomo cominciamo dalla fine, cominciamo dallo sport. Io rimango sempre sorpreso da vedere una specie di preparazione olimpionica delle persone che corrono alle 2 del pomeriggio. Sì. Questo non fa male solo all'organismo, fa male al cervello, e parlo da neurologo. Sudare non è salutare per il nostro organismo, tantomeno per il nostro cervello. Quindi avere un'attività fisica che sia ovviamente confacente l'età, facente anche il periodo dell'anno, se siamo stressati evidentemente farla con gradualità. Restrizione calorica invece, questo lo chiede il nostro cervello ed è assolutamente bizzarro, restringere il numero di calorie, e addirittura osservare alcuni giorni di digiuno sincronizza il centro marcapassi del nostro cervello, che è il nucleo sovrachiasmatico nell'ipotalamo, e quindi mangiare meno calorico. Viceversa, e questo riguarda magari la fascia di popolazione meno giovane, se ci dedicheremo maggiormente ad assumere i famosi omega 3, cioè sì, abbiamo detto pesce e così via, ma anche modiche quantità di vino rosso, i polifenoli e la vitamina E, ma comunque una dieta mediterranea, aiuteremmo il cervello a smaltire i prodotti di lavorazione. Noi abbiamo tanti prodotti di lavorazione che possono essere tossici, ovviamente data di metaboliti dell'attività nervosa, e in questo noi utilizzeremo lì per lì avremo lì per lì un beneficio, ma avremo anche una certa garanzia contro le malattie neurodegenerative. Professore, allora, con i suoi consigli, cervelli in forma e brillanti per l'estate e non solo. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. Allora, torniamo ad occuparci dei nostri capelli, saliamo, no? Leggermente dal cervello, ci spostiamo sopra il cuoio capelluto, abbiamo Carlo da Milano. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senti, io dopo l'attività fisica sono solito fare la doccia scozzese, molto calda e molto fredda, diciamo, no? Sì. So che è benefica per l'organismo, ma per i capelli? Dottor Rinaldi. Per i capelli è un piccolo shock per il fusto, sicuramente addirittura una piccola esercizio vascolare per il cuoio capelluto, quindi assolutamente fattibile, senza problemi. Magari dopo, e qui il professor Barellini magari ce lo dice, aiutare i capelli, vabbè che sì, come è un uomo e quindi avrà i capelli non molto lunghi, non si rovineranno più di tanto, ma magari usare una maschera tanto per ricostruirli un pochettino. Lo aiutiamo subito con una maschera, poi io voglio parlare proprio della ABC, detersione, certo, balsamo, eccetera. Ma una maschera per... Sì, diciamo che maschere e balsami si assomigliano dal punto di vista formulativo. Queste, diciamo, formulazioni sono delle formulazioni ad attività definita sostantivante. Cosa significa? Che creano un film protettivo sulla guaina del capello, quindi che sia una maschera che, diciamo, dà l'idea di essere più nutriente, ha un buon balsamo, direi che in questo caso qui magari una volta alla settimana si può applicare in modo da creare proprio questa guaina protettiva assolutamente positiva per lo stelo del capello. Come può un uomo far sì che diciamo la perdita dei capelli qui non sia un suo problema? Cosa fa? Il caro vecchio riporto, uno fa crescere una pasetta, bella lunga, la stira, poi col pettinino la mattina fa il riporto normale, oppure il riporto a girello, oppure anche il doppio riporto, ti fa anche la barba, ti dà quest'area intellettuale che piace molto alle donne. Questo sì, qualcuno può obiettare, a me questo che obietta già mi ha stufato, però qualcuno può dire, ah però il mio problema è diverso, io ho la perdita di capelli frontali, la cosiddetta fronte alta, per non è un problema, per la fronte alta è veramente semplicissimo, si va in ambulatorio al day hospital, un piccolo intervento, se spostano l'occhio un po' più sopra e hai risolto il problema. Qualcuno avrà sicuramente da ridire, dice sì, però io così facendo poi però ho molto spazio fra la parte superiore del naso e la parte sotteriore degli occhi, e allora il giorno dopo, sempre al day hospital, se sposta il naso un po' più sopra, se mette la bocca a squincia, e così hai risolto tutti i problemi di facciata. Vincenzo ci chiama da Milano, buongiorno Vincenzo, benvenuto. Allora, io sono calvo, diciamo, non totalmente, però ogni volta, adesso ce l'ho corti, quindi quando faccio la barba faccio anche i capelli, me li raso completamente, no? Sì. Io non ho la fobia della perdita di capelli, quindi chiedevo al dottore se esisteva qualcosa per eliminarli completamente. Così evito almeno di almeno lavare. Uno si evita almeno anche di lavare, di radi, perde anche meno tempo. Dottor Rinaldi. Perché sennò ogni volta devo fare la barba, devo fare i capelli. Certo, già che così, no, via. Li elimino e buono, finita, no? E il problema è eliminato. Dottor Rinaldi, io immagino che la richiesta di Vincenzo a lei suoni strana. Di solito si va dal dermatologo per chiedere come evitare o arrestare la caduta e che cosa si può fare d'altro. Invece Vincenzo dice sono talmente pochi che è meglio che non ce ne sia neppure uno. Sì, sì, no, ma lo capisco. danno fastidio ogni tanto. E se uno se lo vive tranquillo, effettivamente danno fastidio. Beh, insomma, per parlare paradossale che possa essere se Vittorio è convinto. Vincenzo. Sì, Vincenzo è convinto, sì, certo, si possono togliere con il laser, esattamente come si tolgono i peli, si possono eliminare i capelli. C'è un unico problema, questa cosa è irreversibile, cioè una volta tolti poi non crescono più, quindi se poi ci si pente, anche uno per pochissimi che siano li rivolesse non crescono più, però può essere una scelta. È vero che allo stesso modo rasarli si fa prima, insomma. Professor Borellini, diciamo, vuole aggiungere qualcosa? Così, proprio... Da maschio o da cosmetologo? Da cosmetologo. Mi viene in mente che potrebbe andare da una brava estetista a fare una ceretta e quindi chiaramente avere questa... Non so come mai, ma la ceretta in testa mi sembra una roba dolorosissima. Penso anch'io, però comunque sicuramente per qualche mese, ecco, non è totalmente irreversibile come il laser, però per qualche mese lui è bello liscio... Senza proprio questi come problemi, una boccetta. Esatto. Però se no, se posso inserirmi, sì. Al limite è mi vero state che... scatenando perché vi... è un argomento che e poi ci si ci piace e poi io volevo in realtà parlare di chi i capelli ce li aveva adesso, no ma mi piace, mi dica quale altra idea le frulla invece, in testa Se invece Vincenzo vorrebbe rinunciarci perché non ne ha, ma se avesse un po' di sensazione, c'è un'altra tecnica, volendo, che è una tecnica abbastanza che si fa facendo strada sempre più anche proprio in termini medici, non solo estetici, che è quello della micropigmentazione. Lui potrebbe fare come è una specie di piccolo tatuaggio molto particolare, sì, che riempie la zona vuota di tanti puntini neri e quindi dà una sensazione di averne di più. Allora quei pochi che ci sono si integrano con quelli che vengono messi e non è una cosa strana, è una cosa molto banale, si fa per esempio per correggere cicatrici anche di interventi gravi, quindi è una cosa seria, diciamo, sì. Per cui eventualmente anziché toglierli si potrebbero integrare visivamente con questa tecnica, con questo praticamente colore. Sì, sono, è proprio come se fosse è una micropigmentazione, come si va a imitare la testa rasata, è un effetto ottico veramente molto bello, Ed è una specie di tatuaggio, tra l'altro non permanente, che dura, che nell'arco normalmente di 9-10 mesi, un anno, a poco se ne va, quindi se uno ha voglia se la rifà, ma è una perfetta tecnica, in mano buone di bravi tatuatori, di bravi micropigmentatori fanno delle cose magnifiche. Sente, quindi questo va bene anche per Elena, che aveva detto che il suo problema era il diradamento delle sopracciglia. Certo, addirittura ci sono quelli bravi che fanno delle micropigmentazioni tridimensionali, si chiama, cioè fanno come un bravo artista che ci dà un'idea di tridimensionalità disegnandoli, per cui ha un effetto veramente bello. Quasi viene voglia di non averli. Tra l'altro esistono appunto queste tecniche che vanno al di là dell'aspetto proprio dermatologico, ma quasi artistico. È un argomento sicuramente meno subdolo di questo. Riescono a ricostruire il capezzolo per chi ha avuto problemi, certo, diciamo, questo, ben più gravi di questo. E quindi sono tecniche assolutamente molto importanti, utili, da conoscere. Allora, 824-0024, se non volete come Vincenzo eliminarli, ma abbiamo dato anche delle indicazioni, e invece i capelli li volete curare, tenerli da conto. Angela da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, il problema è di mio figlio, che ha i capelli folti, ha 23 anni, capelli folti, però ha sofferto in particolare di dermatite seborroica, che ha curato dal dermatologo. Non credevamo che la forfora fosse legata a quella dermatite che aveva nelle pieghe del naso, e invece il dermatologo ha proprio detto che riguarda anche il cuoio capelluto. Con vari shampoo in farmacia o nei negozi biologici ne abbiamo usate tante, adesso è un po' diminuita, però ce l'ha sempre, e siccome ne ha persi due o tre sulle tempie, ha il terrore che possano cadere i capelli in seguito a questo. Chiedevo se è vero, se c'entra il fumo, lo stress, la birra, queste cose qua. Grazie Angela. Grazie, dottor Rinaldi, abbiamo detto che la dermatite seborroica con la bella stagione, con l'estate, dovrebbe migliorare, naturalmente se il sole viene preso in modo nei tempi adeguati, se no c'è un po' l'effetto contrario. Ma Angela, da brava mamma, ha così fatto una domanda molto puntuale. Innanzitutto ci ha dato un'informazione, che la diagnosi, rivolgersi ad uno specialista tante volte salva davvero la situazione, perché Angela ha scoperto che la forfora, che quella che lei pensava forfora, in realtà era la dermatite, certo, che arriva anche al cuoio capelluto. Certo. Ma, dottore, per chi si ritrova nella situazione del figlio di Angela e quindi soffre di dermatite seborroica, quali indicazioni possiamo dare? L'indicazione è molto precisa e tra l'altro le nuove conoscenze, credo che ne avessimo già parlato anche in questa trasmissione, la dermatite seborroica è una reazione di infiammazione del cuoio capelluto. La reazione di infiammazione determina tutta una serie di conseguenze nella pelle che danneggiano anche i capelli, quindi contrariamente a quello che si diceva anni fa, effettivamente una dermatite seborroica importante, quindi arrossamento, desquamazione, sensazione di prurito, sicuramente può danneggiare i capelli alla lunga, portarli a farli cadere. Aggiungiamo che siccome l'infiammazione della dermatite seborroica, che è anche sostenuta da un certo microorganismo che vive sulla pelle, una specie di fungo, sì, viene peggiorata dalle condizioni ambientali, non solo climatiche, ma anche proprio di inquinamento, di polvere, di tutto l'inquinamento e lo smog che ci circonda, chiaramente peggiora il tutto e quindi può provocare un'ulteriore caduta. È per questo che vale la pena, non tanto e solo, io credo, e la vivo da dermatologo, non tanto e solo utilizzare per esempio degli shampoo antiforfora che mediamente possono andar bene, ma ce ne sono ancora di più specifici, abbinati a degli shampoo in realtà che abbiano un'azione idratante, ma questo proprio come terapia, non solo come detersione, ma sicuramente abbinare delle sostanze terapeutiche che possono essere dei medicinali, sempre per lo più topici localmente. Ogni tanto conviene utilizzare per esempio delle sostanze che uccidano questi funghi, conviene utilizzare degli antinfiammatori che possono essere più o meno aggressivi, importanti a seconda di com'è la pelle, ma siccome non è quasi mai forfora, ma è appunto dermatite, e la signora ha detto bene, non credevamo che la forfora in testa fosse abbinata a quello che aveva intorno al naso. Tipicamente la dermatite si manifesta in testa, intorno al naso, sopra le sopracciglia, magari dietro le orecchie. Dagli importanza andare dal dermatologo e impostare la terapia più giusta. Professor Borellini, può dare una mano a queste al cuoio capelluto? Abbiamo parlato di dermatite seborroica, ma in generale è difficile, si usano... Certo, chiaramente in situazioni come queste la linea guida la deve dare lo specialista con le molecole farmacologicamente attive, però nella quotidianità è chiaro che la scelta del detergente diventa importante, perché questi sono tessuti particolarmente delicati e quindi vanno trattati con prodotti veramente poco schiumogeni, caratterizzati da alcune... Allora, io di solito quando abbiamo un problema ai nostri capelli noi diciamo però li lavo con dolcezza e li lavo con uno shampoo neutro o uno shampoo delicato, però bisogna bene intenderci sui termini, soprattutto bisogna saper leggere l'etichetta, perché non è detto che uno shampoo neutro sia uno shampoo non aggressivo. Abbiamo iniziato come porti i capelli bella bionda, ma dovremmo dire come lavi i capelli bella bionda, bella bruna, bel moro. Professor Borellini, ci aiuta, perché la detersione è un momento importante. Certo. Che spesso facciamo con fretta, poi infatti, a me è capitato anche di lavarli col bagnoschiuma. Beh, sì. Non è successo niente. No, perché comunque tutti i tensiattivi schiumogeni, cioè tutti i prodotti che utilizziamo per lavarci, che producono schiuma, sono tutti molto simili, per cui bagno schiuma, doccia schiuma, shampoo, in realtà sono costruiti un po' con la stessa scaletta, acqua, tensioattivo anionico, quindi questa famiglia di detergenti che fanno molta schiuma, che asportano molto bene lo sporco, ma sono anche un po' aggressivi, perché oltre allo sporco portano via questo film idrolipidico che rappresenta la nostra protezione naturale. Poi abbiamo altre sostanze, comunque si assomigliano. Tornando invece al discorso della delicatezza, una delle cose da appunto verificare in etichetta è la presenza di questi tensioattivi più delicati. E dico due nomi subito in modo tale che uno possa poi andare a controllare almeno se quelli del loro shampoo ce l'hanno. Esatto, no. Ecco, due tensioattivi definiti anfoteri, no? Tecnicamente appartengono alle famiglie delle betaine, per cui poter verificare in etichetta la presenza di coco-betaine, coco glucoside, per cui ricordatevi un po' il cocco da cui poi derivano, no? Sì. Quindi sono sostanze... Fanno queste e ci piacciono. Sì, queste sono, per quanto riguarda i prodotti tradizionali, ci piacciono d'estate perché sicuramente sono più delicati. Però ci sono anche delle formulazioni ancora un po' più controcorrente, tipo i cosiddetti oli detergenti, che spaventano un po' perché uno dice ma come, mi metto un olio in testa, invece sono degli oli studiati per essere risciacquati facilmente, quindi sono dei derivati dell'olio di ricino. In etichetta troverete scritto questo nome: hydrogenated castor oil. Ma non c'entrano i castori, non c'entrano i castori. In inglese castor è ricino, per cui è un olio di ricino idrogenato, per cui è un olio di ricino che praticamente è stato modificato per essere risciacquato con l'acqua. Questo è un prodotto che non fa schiuma, riconosce le impurità del cuoio capelluto, e così come quando abbiamo la pelle sporca di catrame si utilizza il petrolio o si utilizza l'olio, questo, sì, via, questo è lo stesso meccanismo di affinità. Quindi si utilizzano questi prodotti. Io ho capito che a lei piacciono più gli oli, o sbaglio? Beh, diciamo che sicuramente sono... È che a me non dà l'idea di, esatto, lavarmi la, sì, testa l'olio. Esatto. Il grande vantaggio dei prodotti tradizionali è che la schiuma ha questa sua enfasi di gradevolezza e di idea di pulito. Ricordatevi però che più schiuma fa un prodotto e più il prodotto è aggressivo. Ma l'olio ne uso di più o di meno? Quanto se ne usa? Beh, chiaramente adesso io sono più concentrato sul cuoio capelluto, per cui non ne serve una quantità enorme. È chiaro che una donna con una chioma foltissima e lunghissima ha bisogno di... è un pochino più complicato, perché bisogna prima lavorare il cuoio capelluto, poi passare i capelli, massaggiarli, insomma... È ovvio che lo shampoo tradizionale è molto più pratico. Riserviamo l'olio almeno una volta alla settimana per un lavaggio, quello che ci facciamo il sabato, la domenica, con calma, massaggiando. E negli altri cerchiamo di utilizzare prodotti che facciano poca schiuma. Poca schiuma, sì. E poi sempre diluiti. E poi sempre diluiti, sì. Andiamo a Lina, dalla provincia di Trento. Buongiorno, Lina. Buongiorno, buongiorno. Complimenti, complimenti al dottore e a lei. Grazie. Dunque, quello che volevo chiedere, ecco, io ho mia figlia, no, che pur avendo solo 25 anni, sì, e neanche compiuti, e già mostra i primi capelli bianchi, non so se è per lo stress dello studio, se è per una questione neanche genetica, comunque questo volevo chiedere, cosa si può fare? Cosa si può fare? Dottor Rinaldi, il capello bianco è un capello sano o un capello che sta soffrendo? No, non è sano. Il capello, può essere sano nel senso che non c'è una malattia, per amor di Dio, però la diminuzione dell'azione del melanocito è proprio un segno che uno dei tre, chiamiamoli motori del bulbo del capello che funziona, sta funzionando non benissimo. Allora, a parte che un po' di capelli bianchi sono assolutamente normali, anche in una persona molto giovane, a parte che c'è una predisposizione genetica, è come se la sveglia di quei capelli fosse stata puntata un po' troppo in anticipo e quindi sono diventati così, direi che... si può fare poco, oppure adesso ci sono delle cose che si possono fare, nel senso che ci sono delle terapie modernissime, ci sono già in farmacia, che sono delle sostanze che sono dei polipeptidi particolari, che sono delle sostanze che mimano l'azione dei propri fattori di crescita, che sono quelle sostanze che ci fanno vivere e regolare nell'attività della vita. Sì. Allora, siccome in questi casi vuol dire che quella sveglia è regolata male, il melanocita sta funzionando poco, ci sono dei prodotti in vendita in farmacia che hanno questi polipeptidi che regolano non di più, non di meno, ma cercano di farlo lavorare in maniera più normale e quindi magari regolare un po' di più quel melanocita. Però forse comunque varrebbe la pena vedere anche qui dal dermatologo, perché potrebbe essere un segno di qualcosa tipo la vitiligine, tipo qualche cosa. Allora vale la pena farsi dire, non c'è niente, sono tre capelli bianchi un po' più precoci, oppure invece magari c'è un inizio di qualche cosa da curare ed è meglio curarla all'inizio. Intanto io saluto un altro ospite che ci ha raggiunto, il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista specialista in igiene e medicina preventiva. Buongiorno dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta. Sta bene, lei di capelli ne ha parecchi, se ben ricordo. Sì. Quindi ha preso comunque nota. Io volevo fare una domanda al dottor Rinaldi rapida di Danilo, perché è un luogo comune, una leggenda, ma è vero che strappando i capelli bianchi ne crescono di più? Magari. Magari, perché no, si toglie quelli bianchi e non ha più neanche quelli. Professor Borellini, prima di dare la parola al dottor Temporini, che abbiamo invitato per aiutarci a capire che cosa mettere in tavola, perché la pelle si avvantaggia della dieta, magari anche i capelli pure, certo, e cerchiamo di capire come, vuole dare un consiglio per questo tempo che precede le vacanze, per fare una sorta di preparazione, no, di allenamento all'estate? A livello sempre capello topico, così. In assoluto direi che, dato che comunque con stando all'aria aperta, il sole, la salsedine, il vento, il capello subisce durante l'estate maggiori stress, utilizzare sempre questi prodotti delicati. E poi ci sono dei prodotti dopo shampoo che sono in grado di creare dei film, questi anche oli secchi, non sono più gli oli di una volta che si applicavano sui capelli e la testa rimaneva molto unta, sono delle formulazioni che creano queste guaine senza dare l'impressione della brillantina degli anni 60, per intenderci. Che magari tornerà di moda anche lei, perché tutto torna. Ciclico. Dottor Temporin, allora andiamo a tavola rapidamente, in mezzo minuto, perché Carmelo è lì già che mi guarda. Che cosa portiamo a tavola? Beh, portiamo a tavola il miglio, in quanto è un cereale leggero, digeribilissimo, ma molto nutriente, perché è ricco di ferro, calcio e fosforo, magnesio, potassio e vitamina B1, ma contiene l'acido silicico, ottimo per rinforzare capelli e unghie e dare lucentezza agli stessi. In più, Carmelo, posso, vero? Sì, rapidissimo, io so che c'è anche il germe di grano, dottor Temporin. Carmelo si sta tappando le orecchie così non capisce che sforo. Mi dica anche il germe di grano, a scaglie lo uso? Il germe di grano si trova sia in olio che in scaglie, è un alimento vitale perché contiene la rara vitamina E, antiossidante naturale e soprattutto un effetto anti-aging per pelle e capelli. Quindi per teste leonine e non solo, grazie dottor Temporin, miglio, germe di grano, dottor Rinaldi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Professor Borellini, la saluto con calma adesso che la porto fuori dallo studio per un caffè, invece domani io vi aspetto come sempre dopo il GR delle 11, che ahimè è anche il mio compleanno. Buona giornata!